Andiamo a Livorno da Gianni. Pronto Gianni? Ciao. Ciao, ciao, come stai Gianni? Molto bene, grazie. Nonostante molti debiti, certo. Quanti debiti hai? Ma 100.000. Come 100.000? No, ma 100.000 debiti o 100.000 euro? No, 100.000 euro. Ma di cosa? La casa? La casa e poi mio figlio ha un corso professionale da 40.000 euro. Scusami, che corso professionale è di 40.000 euro? Chef. Corso di chef costa 40.000 euro? Fra una cosa e l'altra, sì. Ma dove? In una scuola? In un'università? Sì, da Gualtiero Marchesi. Ah, quindi la scuola. Certo. Senti, e come li stai dilazionando questi 100.000? In 8 anni. Qui... Ma li metto in coda al mutuo. Gianni, perché mi sta venendo caldo pensando alla tua condizione? Che lavoro fai nella vita? Impiegato. Dove? Si può dire? Certo. Un formatore scientifico. Sei informatore scientifico? Sì. Che non è quello che porta i medicinali ai... Sì, una specie. Ah, sì. Però non vai in giro? Sì, vado in giro. Ma allora non sei un impiegato, scusami. Vabbè, il rapporto è quello. Sei tipo rappresentante? Beh, un po' più scientifico. Quindi dai, facciamo così. Non ti chiedo quanti soldi guadagni, perché mi hanno detto che è brutto chiedere quanti soldi si guadagna. Facciamo 30.000, dai. 30.000 all'anno. E quanti, in percentuale, quanti vanno a rifondare sti... a ripianare? Quasi il 50. Quasi il 50%? Certo. Ma compreso il mutuo, compreso certo. Il corso professionale del figlio. Però il corso professionale del figlio è un investimento per il futuro, Gianni. Assolutamente, è il più produttivo. Guarda Gianni, ma detto questo, anche con 100.000 euro di debiti io ti sento sereno. Certo, credo sì. E questa è una speranza per il futuro. Gianni, grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Ciao, complimenti, sei grazie. Bravissimo. Anche a te sei bravissimo, guarda Gianni, non so come fai. Ciao, grazie.